L'altro pianeta di Laura Bettini. Parliamo sempre di più di raccolta differenziata e sempre più spesso la facciamo o la dobbiamo fare. Ma chi si occupa di tutti questi mucchietti che noi prepariamo a casa? Facciamo finta di essere in un paese perfetto dove nessuno resta indietro, o meglio nulla resta indietro, perché dopo averle recepite, ora si seguono le normative europee in materia. In questo paese perfetto, quello che gettiamo arriva alle isole ecologiche dei comuni, dove si formano tanti altri grossi mucchietti. Lampadine, pile o elettrodomestici vecchi alle isole ecologiche arrivano perché o ce li portiamo noi o ce li portano i rivenditori, da cui compriamo oggetti nuovi che sostituiscono quelli vecchi. In realtà per le pile non è nemmeno necessario comprare pile nuove per poter depositare quelle vecchie nei raccoglitori. In quel paese perfetto di cui dicevamo non ci sono mafie e nemmeno truffatori, né tantomeno disinformati tra i consumatori o tra i venditori, e il più possibile quindi viene recuperato e riciclato. Da chi? Ecco, nel paese perfetto, ma anche in quello reale, se ne occupano i consorzi di riciclo e recupero. Ne esistono infatti per ogni materiale o oggetto riciclabile. Tra i più noti ci sono senza dubbio quelli che si radunano sotto il cappello del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi. Ne fanno parte 6 consorzi che sono rappresentativi di vari materiali: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro. 3 in particolare sono noti a tutti: Comieco, Coreve e Corepla, i consorzi che recuperano rispettivamente carta, vetro e plastica. Diciamo la raccolta base per ogni cittadino. Questi, ma anche gli altri, non sono consorzi a fini di lucro. I loro guadagni, perché spese ne hanno, arrivano dal contributo ambientale imposto su qualsiasi imballaggio o merce. Un contributo che serve a ripartire i costi di raccolta, recupero e riciclo tra i produttori e gli utilizzatori. E infatti lo paghiamo anche noi, nel prezzo finale degli oggetti. Nel caso del CONAI, il totale dei contributi percepiti viene ripartito tra i consorzi, diciamo così, figli. Questo ovviamente non basta a finanziare attività mirate o ad hoc per situazioni di crisi, come nel caso di Caserta, di cui il direttore generale di CONAI, Walter Facciotto, ha parlato con Simone Spezia. Questo è il primo piano di sviluppo della raccolta differenziata che viene realizzato in una delle province della Campania, e quindi con la provincia di Caserta. È un piano sviluppato dal CONAI in collaborazione con la provincia, che prevede di raggiungere entro il 2015 il 65% di raccolta differenziata e quindi di consentire la riduzione dell'utilizzo della discarica. È un piano importante perché in base alla nuova normativa della Regione Campania, entro il 1 gennaio 2012 tutte le province della Campania devono elaborare e realizzare un piano che consenta loro di gestire in modo autonomo il flusso completo dei rifiuti. L'investimento previsto è di 96 milioni di euro all'anno. Sono tutti i soldi che mette la provincia? Sono 96 milioni di euro di investimenti. Sicuramente la regione farà anche la sua parte, così come, anche se in misura di minore, il CONAI. Le iniziative dei consorzi sono tante e diverse, molte nemmeno così ampie come quelle di Caserta. Talvolta, ahimè, si lavora solo per farsi conoscere, per, diciamo così, instaurare rapporti con imprese, cittadini e amministrazioni che sono ancora digiuni o pigri in tema di recupero e riciclo. Ecolamp, ad esempio, è uno dei consorzi che si occupano di trattamento delle sorgenti luminose a basso consumo esauste. Hanno appena lanciato la campagna EcoPoint per allestire punti di raccolta di lampade e lampadine nei negozi. Fabrizio D'Amico, direttore generale. offriamo ai distributori che sono tenuti dallo scorso anno ad organizzare la raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, tra questi ci sono le sorgenti luminose esauste, dei contenitori per la raccolta e un pacchetto di informazioni per i loro clienti ultimi, che sono prevalentemente installatori, cioè il pubblico che tradizionalmente detiene i maggiori quantitativi di lampade esauste. Il fatto che voi abbiate deciso di dare inizio a questa campagna con EcoPoint significa che da parte dei rivenditori c'era una certa difficoltà a raccogliere l'usato? Sì, non solo c'era una difficoltà, ma c'era anche, mi lasci dire, una scarsa voglia. Riottosi anche perché, spiega ancora D'Amico, negli anni in cui ci si sarebbe dovuti preparare all'entrata in vigore delle nuove norme, non si è fatto nulla. Il problema principale che noi abbiamo registrato in questi 2 anni e mezzo ormai di attività di raccolta delle lampade è che chi materialmente deve informare il pubblico, ossia i cittadini, i professionisti dell'illuminazione, gli stessi centri di raccolta o i distributori, non lo fa. La normativa europea ed italiana dice che sono le amministrazioni pubbliche a dover organizzare campagne informative, ma in tempi di finanza pubblica molto ristretta evidentemente è comprensibile che questo non accada. Per cui abbiamo dovuto sopperire anche noi, infatti negli ultimi 2 anni e mezzo abbiamo organizzato anche campagne di pubblicità. Però è anche vero che la normativa di fatto chiede al cittadino almeno il minimo sforzo di disporre separatamente questi rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Oggigiorno invece pretendere si può. Comprando una lampadina nuova, il rivenditore deve occuparsi dello smaltimento di quella vecchia. Lo stesso vale per elettrodomestici, grandi e piccoli, o apparecchi elettronici, senza costi aggiuntivi, visto che il contributo ambientale è compreso nel prezzo dell'oggetto che acquistiamo. È importante saperlo, perché i RAE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, aumentano in maniera vertiginosa, per i motivi più svariati. Danilo Bonato, direttore generale del Consorzio Remedia. L'accelerazione del passaggio al digitale terrestre ha fatto sì che molti italiani sostituissero il proprio televisore, buttando via il televisore a tubo catodico, quello pesante che ha tutto questo vetro del tubo catodico, e finendo le produzioni di nuovi televisori a tubo catodico, ci siamo trovati con gli impianti di riciclo pieni di materiale di vetro che nessuno più andava a ritirare sul mercato. Questo crea un problema, perché se il vetro non viene riutilizzato... Quel vetro lì non poteva essere utilizzato per scopi, diciamo, normali, evidentemente era particolare questo vetro. Non può essere utilizzato per impieghi alimentari, per fare bicchieri o contenitori di vetro, e che in passato veniva acquistato dalle aziende che producevano altri tubi catodici. E allora che fare di questo vetro? Piastrelle certificate LEED, che è una certificazione di sostenibilità, che saranno sul mercato da fine anno. Qui è nata appunto l'idea di metterci al lavoro con un gruppo del settore ceramico, il numero 2 mondiale, che è il gruppo Concord, ed è nata l'idea di questa piastrella speciale. Un progetto che stiamo perfezionando a fronte di un finanziamento europeo. In questo caso anche l'industria ceramica si trova in una situazione di difficoltà, perché in Europa abbiamo un problema di scarsità di materie prime. Per fare le piastrelle si usa una sabbia molto particolare che si chiama feldspato, che viene dalla Turchia, e la Cina si sta accaparrando questi materiali. Ne consegue che i prezzi aumentano e la disponibilità di materie prime diventa più scarsa, ed ecco l'importanza anche di trovare nei materiali riciclati, come il vetro in questo caso, delle alternative a materie prime vergini che in prospettiva potrebbero essere sempre più scarse. Che la plastica sia riciclabile invece lo sanno tutti, tant'è che la sua raccolta differenziata nel 2010 è cresciuta del 4,6%, raggiungendo le 615.000 tonnellate. E però anche questo settore ha attraversato tempi cupi. Per colpa della crisi economica, infatti, la richiesta di materia prima, vergine o no, è crollata. Il presidente del Corepla, Giuseppe Rossi. Tra il 1 ottobre del 2008 e il 30 settembre del 2009 ha fatto un arretramento rispetto alle posizioni che aveva raggiunto di circa il 19-20%. Questa è la media delle plastiche. Poi alcune che sono più diciamo così vicine all'imballaggio alimentare hanno retto molto meglio e hanno fatto che sono da meno 3, meno 5. Altre che vanno nelle plastiche dei beni durevoli hanno subito contrazioni del 40%, grosso modo. E quindi sono collassati i prezzi delle materie prime vergini e sono collassati i prezzi dei materiali di recupero. Cosa è successo? Che il consorzio si alimenta di due ricavi. Uno, quello che riesce ad avere dalla vendita, dalla commercializzazione delle materie prime seconde, e poi si alimenta, come essendo un consorzio che ha un servizio pubblico, di un contributo ambientale che è associato all'immesso al consumo. Quando c'è un calo di domanda anche l'immesso al consumo diminuisce, quindi il mercato, e quindi manca anche il ricavo, cioè crolla anche il ricavo che arriva dal contributo ambientale. Come hanno superato la crisi? Vendendo il loro prodotto anche a prezzi stracciati e aumentando il contributo ambientale, che ora però si sta riportando a livelli più bassi. E anche con un pizzico di fortuna. L'aumento del prezzo del petrolio ha indirizzato i produttori sulle plastiche riciclate. Qualcosa di simile accadde agli inizi della Seconda Guerra Mondiale per gli oli lubrificanti. Si cominciò a rigenerarli per mancanza di materia prima da cui estrarli. Paolo Tomasi è presidente COU, Consorzio Oli Usati. Questi impianti che sono distribuiti in Italia, queste raffinerie, in buona sostanza sono una peculiarità prevalentemente italiana, perché lei pensi che a rigenerare si cominciò nell'epoca della guerra degli anni 40, evidentemente partendo da un problema di carenza di materie prime. Dopodiché l'industria su questo slancio diciamo pionieristico si è gradualmente sofisticata, gli impianti sono diventati più complessi, in pratica il sistema di raffinazione oggi copre vicino al 25%, il che vuol dire che una volta ogni 4 anni siamo in autogestione. Per diffondere la consapevolezza che gli oli usati dei motori delle nostre auto non si devono gettare nel tombino, perché sono proprio i singoli i maggiori inquinatori, il COU sta girando l'Italia con un'iniziativa dal titolo Circoliamo. L'olio usato viene prevalentemente un 50% dal settore industriale e un altro 50% dal settore autotrazione. Autotrazione vuol dire in pratica officine meccaniche e comunque altri utilizzi di questo tipo, grande distribuzione organizzata, nautica e compagnia bella. Quindi 50 e 50. Da 100 di olio che viene messo al mercato, 45% ritorna come olio usato. In pratica oggi come qualità le raffinerie di rigenerazione riescono a restituire una base lubrificante che è perfettamente analoga a quella di provenienza greggio, quindi anche sotto il profilo dell'utilizzazione i prodotti si comportano in maniera completamente analoga. E attenzione, nei tombini e nei lavandini non vanno gettati oli di nessun tipo, nemmeno quello della frittura. I depuratori delle vostre città ve ne saranno grati. L'ambiente vi sarà grato anche se non lascerete per strada le batterie esauste, di cui si occupa invece magistralmente il COBAT, presieduto da Giancarlo Morandi. Parliamo di qualcosa come 14 milioni di pezzi all'anno che generano 200 milioni di chili di batterie esauste che noi raccogliamo in giro per tutta l'Italia e avviamo al riciclo, avendo di nuovo perciò piombo, plastica e acido solforico, che sono essenzialmente le tre componenti delle nostre batterie. Strano però che se per le batterie il messaggio è chiaro, a molti, lo stesso non si può dire per le pile, quelle di uso quotidiano nelle nostre case, quelle che per legge possiamo consegnare ai rivenditori anche senza doverne comprare di nuove. Se ne occupa sempre il COBAT. Abbiamo preso alcune aree test, provincia di Lecco e il comune di Venezia, e lì abbiamo raccolto le pile in accordo con le amministrazioni locali e con gli operatori locali, proprio per sperimentare cosa bisogna fare per essere corretti dal punto di vista ambientale, ma anche per rispondere a quello che l'Unione Europea ci obbliga a fare, e cioè che è la raccolta del 25% delle pile che si impiegano entro la fine del 2012 e nel 2014 addirittura il 45%. In provincia di Lecco, dove abbiamo diffuso sul territorio una importante presenza di raccoglitori di questi pile, abbiamo già raggiunto 2 anni fa le quantità previste dall'Unione Europea per il 2012, cioè quel 25% famoso. L'altro pianeta. Bentornati all'altro pianeta. Nella prima parte del programma oggi abbiamo parlato di consorzi di recupero e riciclo e potrete riascoltarci sul sito internet di Radio 24. Ora invece è il momento dell'intervista di Cristina Carpinelli. Sentiamo cosa ci riserva questa settimana. L'uomo interviene sulla natura per ragioni diverse, ci sono ragioni economiche in primis, che sono poi quelle che fanno sì che si continuino a distruggere le foreste, a deturpare l'ambiente, a contribuire all'estinzione di specie animali. L'uomo interviene poi sulla natura anche per riparare a quanto fatto. In ogni caso, la libertà di intervenire in un senso o in un altro va contro la libertà della natura stessa. È un concetto dal punto di vista filosofico molto interessante, che parte da un presupposto, e cioè l'uomo a sua volta può dirsi libero? Ed è da qui che sono partiti Mario De Caro, filosofo docente di filosofia morale, Andrea Lavazza, studioso di scienze cognitive, e Giuseppe Sartori, ordinario di neuropsicologia, nel loro libro Siamo davvero liberi? Oggi con noi, per cercare di rispondere alle domande che abbiamo appena fatto, c'è Mauro De Caro. Allora, professore, la prima domanda è: come si affronta oggi il tema del libero arbitrio? Sì, dunque è vero che nella maggior parte dei casi i neuroscienziati, anche i filosofi, gli psicologi che usano le neuroscienze, le scienze cognitive per occuparsi del libero arbitrio, hanno virato verso una sorta di scetticismo su questa nozione e sulle nozioni collegate, tipo quella di responsabilità morale. Però è anche vero che ci sono ragioni, e noi cerchiamo di parlarne nel libro, per avere un atteggiamento un po' più prudente. Ecco, entrambe le posizioni sono rappresentate nel dibattito e noi cerchiamo di dare voce ad entrambe, insomma. Si può ancora continuare a parlare di libero arbitrio, tuttavia lo si deve fare con più prudenza, perché in casi che sembravano esempi ovvi di esercizio della libertà, in verità tanto ovvi non sono, e forse è abbastanza conclamato che appunto in casi naturali noi siamo condizionati da eventi che ci sono, che noi non controlliamo e di cui siamo spesso e volentieri anche inconsapevoli. Senta, professore, tra l'altro leggendo il vostro libro a me sono venute molte domande anche rispetto ai temi di attualità che viviamo tutti i giorni, ad esempio questo tema della volontà, questo tema della libertà. Come si può leggere in una stagione proprio dell'uomo, in un'epoca dell'uomo in cui la natura in qualche modo ci sta venendo addosso, insomma non è più la madre che protegge? Naturalmente il discorso che sta facendo si presta anche a considerazioni più generali, se posso aggiungere solo un momento, tanto per dire è vero anche che come diceva Leopardi, la natura è matrigna, però molti dei danni ce li facciamo da soli, e per esempio adesso in Giappone è triplice, è vero che c'è stato il terremoto e c'è stato il maremoto, ma i danni maggiori li sta causando la centrale nucleare, certo, che non è naturale, nel senso, naturalmente noi siamo parte della natura e lo è anche quella, però è anche artificiale la centrale e i danni maggiori vengono da lì. Quindi cioè, discorso su come esercitiamo, ecco, se vogliamo declinarlo rispetto al libero arbitrio, come noi esercitiamo il libero arbitrio, se c'è questa entità, questa facoltà, e come lo esercitiamo talora con esiti nefasti. E il problema è che lei dice ha una conseguenza immediata, cioè se noi non siamo liberi, allora perché dovremmo dirci responsabili di ciò che facciamo? per esempio, se ci facciamo del male all'ambiente, facciamo del male ai nostri simili, però non potevamo fare in nessun modo nient'altro. Tutto ciò che noi pensiamo di tutto il controllo che pensiamo di esercitare è mera apparenza. E allora cosa succede? E questo è un problema che si riverbera anche sul diritto pesantemente. In questo senso, in qualche modo c'è tutto il settore, la questione della conoscenza, no? Cioè oggi studiamo il cervello in modo più dettagliato, abbiamo strumenti più efficaci che ci permettono di capire. Tutto questo ci avvicina o ci allontana dall'avere, diciamo, una risposta al titolo del vostro libro, Siamo davvero liberi? Naturalmente in qualche senso avvicina, però la nozione di avvicinamento qui è un po' scottante, perché la nozione di avvicinamento lascia intendere che certamente siamo in grado di raggiungere l'obiettivo. Ecco, su questi grandi temi filosofici c'è qualche dubbio che si possano sciogliere una volta per tutte. Ciò non vuol dire, come dicevo prima, che noi non ne sappiamo più, e probabilmente molto di più di quanto non si sapesse 50 anni fa o anche 30 anni fa, però non è detto che raggiungeremo il traguardo finale. C'era un famoso scienziato, Dubarremont, nell'Ottocento, che diceva che ci sono delle cose che rimarranno per sempre dei misteri. Ecco, questa posizione è anche tornata di moda. Per esempio, il grande linguista Chomsky, il più grande linguista di sempre probabilmente, sostiene che il tema della libertà è uno di quelli rispetto ai quali la specie umana resterà sempre ignorante. La Repubblica, dice l'articolo 9 della Costituzione italiana, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, e proprio così abbiamo intitolato la rubrica, a cura di Marco Carminati, in cui ogni settimana segnaliamo un bene italiano da salvare. Buongiorno a tutti, è con noi in collegamento il vicepresidente del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, il dottor Marco Magnifico. Buongiorno dottor Magnifico. Buongiorno a voi. Grazie. Ecco, lei è sempre in viaggio, si sente un po' anche dal collegamento, voi del FAI non state mai fermi, sempre attenti al nostro paese, all'Italia, che è un po' il tema del vostro lavoro. E oggi lei ci vuol portare però non a vedere un brano di paesaggio, bensì un brano di paesaggio urbano, e di sempre di qualità si parla, perché voi del FAI vi occupate naturalmente della natura, dell'ambiente, ma soprattutto delle città, che sono natura e ambiente antropizzato, ma naturalmente importante dal punto di vista della qualità e della difesa della qualità. Ecco, che caso ci vuole illustrare oggi? Un caso che sembra un caso secondario, e non lo è assolutamente. Si parla di un intero isolato della città di Trento, città meravigliosa naturalmente. Allora, nel 1876 gli Asburgo, che lavoravano su grandi livelli anche di qualità, decidono di costruire un carcere modello e un tribunale modello nel centro di Trento. Danno l'incarico a questo grandissimo architetto che si chiamava Karl Schaden, e che fu uno degli architetti del regime asburgico. Nel 1876 viene costruito questo enorme tribunale al quale è attaccato il carcere, perché se uno entrava in tribunale, se gli andava bene usciva, se gli andava male passava dall'altra parte e andava in carcere. Ma nel 1993 la sovrintendenza disse che il carcere non era granché, e quindi diede l'autorizzazione ad abbatterlo. Ora, non ha senso, perché è una cosa che il regime austro-ungarico decise come unitario, voglio dire, deve essere una cosa, è quello il bello, tribunale, carcere assieme. Tra l'altro il carcere ha questa magnifica chiesa ottocentesca, e lì si parla anche di anime, di persone che hanno sofferto, di persone che magari si sono redente. Ora, cancellare un pezzo di città e un pezzo di storia così a noi sembra una follia. Ci siamo messi di mezzo, abbiamo fatto ricorsi al TAR, non le voglio dire, ma purtroppo li abbiamo persi tutti. Forse è una battaglia che perderemo, ma è una battaglia che abbiamo combattuto, secondo noi, con onore. Ecco, ma intervenire in questo caso nel centro storico per salvare addirittura un monumento che a gran parte degli italiani sarebbe inviso, l'idea che sia un carcere e un tribunale asburgico ancora, nonostante siano passati più di 200 anni, fa ancora fremere, soprattutto nella parte nord del nostro paese. Ma perché bisognerebbe salvare? Soprattutto, secondo voi, che cosa si potrebbe fare se si salvasse un ambito del genere nel cuore della città? Ma io credo che soprattutto oggi non possiamo cambiare i connotati a un isolato intero ottocentesco della città di Trento, perché questo fa parte del paesaggio urbano. Quindi comunque gli esterni del carcere, l'abside di questa enorme chiesa, fanno parte del paesaggio urbano, lei me l'ha ricordato prima, quindi questo è molto importante. Siccome il tribunale ha bisogno di spazi, anziché andare a costruire, perché poi buttato giù il vecchio carcere, addosserebbero al tribunale una di quelle architetture contemporanee che gli architetti amano definire trasparenti, perché sono di vetro, ma un'architettura non è mai trasparente, anche se il vetro lo è. Ecco, quindi, allora la nostra proposta è chiaramente quella di adattare, di tenere il guscio e di adattare il carcere, l'ex carcere, a nuove aree, a nuove zone del tribunale. Questo proprio perché l'identità del centro storico della città di Trento non muti. Ecco, noi riteniamo che sia una questione di rispetto verso la storia. Si vuole costruire qualcosa di nuovo, ma benissimo, in un'altra parte della città, senza rinunciare a un pezzo di città antica. Oltretutto, ripeto, importante come quella voluta dagli Asburgo, affidandola a Karl Schaden, che è veramente uno dei grandi architetti delle città, dell'urbanistica, interpreti dell'urbanistica ottocentesca austro-ungarica. Quindi a Vienna ci sono ancora molte cose sue. È anche importante quindi salvare questo pezzo di storia austro-ungarica di Trento, che è stato un pezzo molto importante. Certo, quindi mi sembra davvero una lezione di metodo, anche se forse in questo caso il FAI non vincerà questa battaglia. Il messaggio che lei ci ha adesso trasmesso è molto chiaro, che non si abbattono così tranquillamente edifici di carattere storico, soprattutto se questi edifici sono stati costruiti da architetti di grande rilievo del secolo scorso, e che si deve rispettare quello che è stato il suo strato, soprattutto nel cuore della città, che il tempo, la storia e i secoli hanno adagiato in questo spazio. Qualsiasi cosa, ecco. Poi noi abbiamo raccolto, abbiamo detto alla così, abbiamo lanciato un appello alla cittadinanza, abbiamo raccolto più di 7.000 firme. Voglio dire, la gente di Trento capisce, ecco, rimpiangerebbe questo pezzo della sua città, e quindi trovo che insomma è una violenza gratuita, ed è una violenza che va contro, come dire, proprio il fatto che le città sono poi i nidi dove noi viviamo. Quindi insomma, nel momento in cui si viene a perdere un pezzo del panorama, ecco, del panorama urbanistico nel quale noi siamo nati e vissuti, beh, insomma, è noi tutti siamo abituati a vedere delle vecchie fotografie delle nostre città e dire come era bello. Ecco, cerchiamo di fare in modo che i nostri figli e i nostri nipoti trentini non dicono come era bello prima che abbattessero quel vecchio carcere con quella grande chiesa neogotica. Va bene, allora speriamo davvero che nonostante tutto anche questo appello possa servire magari per un ravvedimento, per una modifica del progetto. Io ringrazio molto il dottor Magnifico. Grazie dottore. Grazie, a presto. E speriamo di averla ancora presto con noi. Grazie anche agli ascoltatori. Con la segnalazione di Marco Carminati è tutto anche per questa settimana. Per riascoltarci c'è il sito radio24.it, c'è anche l'indirizzo email di questa trasmissione, l'altropianeta@radio24.it, oppure potete scrivere direttamente a me, laura.bettini@radio24.it. Ci sentiamo la prossima settimana alla stessa ora.